Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. La Locanda della Tormenta presenta Conan, Ombre al chiaro di luna. Buon ascolto. Uno. Un rapido strepito di cavalli attraversò le alte canne. Vi fu una pesante caduta seguita da un grido disperato. Il cavaliere si alzò barcollando dal destriero morente. Era una ragazza snella che indossava dei sandali e una tunica stretta invita da una cintura. I capelli scuri le ricadevano sulle candide spalle. I suoi occhi erano quelli di un animale in trappola. Non prestò attenzione alla giungla di canne che urlava la piccola radura e neppure alle acque azzurre che lambivano la bassa sponda dietro di lei. I suoi occhi sgranati erano fissi con ansia mortale sul cavaliere che si faceva strada attraverso la cortina di canne e che smontò di fronte a lei. Era un uomo alto e asciutto, ma solido come l'acciaio. Da capo a piedi indossava una leggera cotta di maglia argentata che si adattava alla sua agile figura come un guanto. Da sotto l'elmo a cupola decorato d'oro, i suoi occhi marroni la scrutarono beffardamente. «Stai indietro!» strillò con terrore la ragazza. «Non toccarmi, Shamurat, o mi getterò in acqua e mi affogherò!» L'uomo rise e la sua risata era simile al ronzio che fa una spada uscendo da un fodero di seta. «No, non affogherai, Olivia, figlia della confusione, perché l'acqua è troppo bassa e posso afferrarti prima che tu riesca a raggiungere il fondo! Mi hai fatto fare un bel inseguimento per gli dèi! E tutti i miei uomini sono rimasti molto indietro. Però non c'è cavallo d'ovest del Vilayet che possa distanziare a lungo Irem!» Con un cenno del capo indicò l'alto stallone del deserto dalle affusolate zampe dietro di sé. «Lasciami andare!» implorò la ragazza con le lacrime della disperazione che le solcavano il viso. «Non ho già sofferto abbastanza! Non c'è umiliazione, dolore o degradazione che non si sia accanita su di me! Quanto deve durare il mio tormento?» «Fin tanto che trarrò piacere dai tuoi gemiti, dalle tue suppliche, dalle tue lacrime, dai tuoi contorcimenti!» rispose l'uomo con un sorriso che a uno straniero sarebbe parso gentile. «Sei stranamente virile, Olivia! Mi chiedo se mai mi stancherò di te, come mi sono sempre stancato delle altre donne prima d'ora! Sei sempre fresca e incontaminata! Nonostante i miei sforzi, ogni nuovo giorno con te porta una nuova delizia. Adesso vieni, ritorniamo ad Akif, dove il popolo sta ancora festeggiando il conquistatore dei miserabili cosacchi, mentre lui, il conquistatore, è impegnato a ricatturare una fuggitiva derelitta, una sciocca, amabile, idiota fuggitiva!» Olivia si ritrasse, girandosi verso le acque azzurre che lambivano le canne. «No!» «Sì!» Il lampo di manifesta rabbia dell'uomo fu come una scintilla prodotta da un acciarino. Con una rapidità che le tenere membra della ragazza non poterono eguagliare, Shamurat le afferrò il polso torcendoglielo con crudeltà puramente gratuita, fino a quando la ragazza non strillò e cadde in ginocchio. «Squaldrina! Ti dovrei riportare da Akif attaccata alla coda del mio cavallo! Invece sarò pietoso e ti porterò con me sulla sella, favore per il quale dovrai umilmente ringraziarmi, mentre...» Amurat la lasciò con un'imprecazione di stupore e balzò all'indietro sguainando la sua sciabola, al vedere una terribile apparizione sbucare dalla giungla di canne emettendo un inarticolato grido d'odio. Olivia, che fissava la scena da terra, vide quello che lei ritenne essere un selvaggio o un pazzo avanzare verso Shamurat in atteggiamento di mortale minaccia. Di corporatura possente, era nudo tranne che per un perizoma macchiato di sangue e incrostato di melma secca, avvolto sui fianchi. La sua chioma corvina era sozza di fango, di sangue rappreso. Sul petto, sugli arti e sulla lunga spada che stringeva nella mano destra, aveva chiazze di sangue raggrumato. Da sotto il groviglio dei capelli, due occhi iniettati di sangue ardevano come carboni di fuoco azzurro. «Cane ircaniano!» tuonò l'apparizione con accento barbaro. «I demoni della vendetta ti hanno fatto arrivare qui! Un cosaco!» esclamò Shah Murat ritraendosi. «Non sapevo che uno di voi cani fosse riuscito a fuggire! Credevo che foste tutti morti nella steppa presso il fiume Ilbars!» «Tutti tranne me, maledetto!» gridò l'altro. «Oh, sognavo un incontro simile mentre strisciavo sulla pancia attraverso i rovi, o mi appiattivo sotto le rocce mentre le formiche banchettavano con la mia carne, o mi accucciavo nel fango fino alla bocca. Sognavo, ma non avrei mai sperato che sarebbe potuto accadere. Oh, dei degli inferi, come ho bramato questo momento!» La gioia negli occhi iniettati di sangue dello straniero era terribile da vedere. Le sue mascelle lavoravano spasmodicamente. La schiuma comparve sulle sue labbra annerite. «Sta indietro!» ordinò Shah Murat fissandolo attentamente. «Ah!» fu come il latrato di un lupo dei boschi. «Shah Murat, il grande signore di Akif! Oh, maledetto, come sono contento di vederti! Tu che hai dato i miei compagni in pasto agli avvoltoi, che hai fatti squartare dai cavalli selvaggi, che li hai accecati e mutilati! Ah, cane, cane rognoso!» La sua voce si levò in un urlo folle e poi caricò. Nonostante il terrore provocato da quella selvaggia apparizione, Olivia osservò, aspettandosi di vederlo cadere al primo incrocio delle lame. Pazzo o selvaggio, cosa poteva fare, nudo com'era, contro il signore in armatura di Akif? Ci fu un istante in cui le spade fiammeggiarono e si toccarono, sembrando appena sfiorarsi a vicenda, e poi separarsi. Poi la grossa e lunga spada guizzò superando la sciabola e si abbatté in maniera terrificante sulla spalla di Shah Murat. Olivia gridò per l'impeto di quel colpo. Al di sopra dello scricchiolio della cotta di maglia lacerata, la ragazza udì chiaramente lo spezzarsi dell'osso della spalla. L'ircaniano barcollò all'indietro sbiancato improvvisamente in volto, mentre il sangue schizzava dallo squarcio del suo sbergo. La sciabola gli scivolò dalle dita, diventate insensibili. «Pietà!» gemette. «Pietà!» C'era un fremito di follia nella voce dello straniero. «Pietà, come l'hai data a noi? Porco!» Olivia chiuse gli occhi. Non era più una battaglia, ma un massacro frenetico, sanguinoso, spinto da un isterismo di furia ed odio, nel quale culminavano le sofferenze della battaglia, del macello, della tortura e della fuga dettata dal panico, spinta dalla sete e dalla fame. Sebbene Olivia sapesse che Shah Murat non meritava né pietà né quartiere da nessuna creatura vivente, chiuse comunque gli occhi e si premette le mani sulle orecchie per non vedere quella spada gocciolante sollevarsi e abbattersi con il suono della mannaia del macellaio, e per non ascoltare le grida gorgoglianti che scemavano e si affievolivano. Aprì gli occhi e vide lo straniero allontanarsi da una forma sanguinolenta che solo vagamente ricordava un essere umano. Il petto dell'uomo ansimava per la stanchezza o per la passione. La sua fronte era imperlata di sudore, la mano destra era chiazzata di sangue. Non parlò alla ragazza e neppure la degnò di uno sguardo. Olivia lo vide allontanarsi tra le canne che crescevano sul bordo dell'acqua, chinarsi e tirare qualcosa. Una barca ondeggiò uscendo dal nascondiglio tra gli steli. Poi la ragazza intuì le intenzioni dell'uomo e fu galvanizzata ad agire. «Oh, aspetta!» Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo Store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Pronto? Appuntamento Ufficio Soluzioni Esagerate. Salve, sono Luca Soldoni, consulente finanziario. Chiamo perché devo fare i conti con le tasse. Il carico fiscale è esagerato. Alleggeriscilo con i buoni pasto ticket Restaurant Edred. Sono deducibili anche per una partita IVA come te. E scarichi tutto con una fattura unica. E poi sono spendibili in tutta Italia anche per la spesa e il food delivery. Vai su ticketrestaurant.it. Esageratamente Edred. Mette alzandosi e corse barcollando verso di lui. Non lasciarmi! Portami con te! L'uomo si voltò e la fissò. Adesso nel suo portamento c'era qualcosa di diverso. Dai suoi occhi iniettati di sangue non traspariva più la follia. Era come se il sangue che avesse appena versato avesse spento il fuoco della sua furia. Chi sei? Le domandò. Mi chiamo Olivia. Ero sua prigioniera. Sono fuggita e mi ha seguita. Ecco perché si trovava qui. Oh, non lasciarmi in questo posto. I suoi guerrieri non sono molto distanti. Troveranno il suo cadavere e vicino troveranno me. Oh! Gemette per il terrore, torcendosi le candide mani. L'uomo la fissò con aria perplessa. Preferiresti venire con me? Le chiese. Io sono un barbaro e capisco dai tuoi sguardi che hai paura di me. Sì, ho paura di te. Replicò Olivia, troppo sconvolta per dissimulare. La mia pelle rabbrividisce davanti all'orrore del tuo aspetto. Però temo ancora di più gli ircaniani. Oh, fammi venire con te. Loro mi tortureranno se mi troveranno accanto al cadavere del loro signore. Vieni allora. Il barbaro si fece da parte e Olivia salì rapidamente nella barca, evitando di venire in contatto fisico con l'uomo. Si sedette a prua e l'uomo salì a sua volta nella barca, spingendola con un remo, poi usandolo come una pagaia. Si fece strada tortuosamente tra le alte canne, fino a quando non scivolarono nelle acque aperte. Quindi si mise a vogare con entrambi i remi, remando con grandi e ampie vogate regolari, i massicci muscoli delle braccia e delle spalle guizzanti al ritmo dei colpi. Per un po' di tempo regnò il silenzio tra la ragazza accucciata a prua e l'uomo che vogava. Olivia lo fissava, allo stesso tempo timorosa e affascinata. Era evidente che non era un ircaniano e non assomigliava a nessuno della razza iboriana. In lui c'era una durezza selvaggia che lo denunciava come barbaro. I suoi lineamenti, nonostante gli sforzi e i segni della battaglia e della fuga nelle paludi, riflettevano lo stesso spirito di selvaggia indomabilità. Ma non erano né malvagi né degenerati. Chi sei? Gli chiese. Shah Murat ti ha chiamato Kozako. Facevi parte di quella banda? Sono Conan di Cimmeria. Ero con i Kozaki, come i cani ircaniani ci chiamavano. Olivia sapeva vagamente che la terra che aveva nominato si trovava lontano, a nord-ovest, oltre i confini estremi dei diversi regni della sua razza. Io sono la figlia del re di Orfir, disse lei. Mio padre mi vendette a un capo scemita perché non avevo voluto sposare un principe di Kot. Il cimmero grugnì per la sorpresa. Le labbra della ragazza si contrassero in un sorriso amaro. Certo, gli uomini civilizzati vendono i loro figli come schiavi ai selvaggi, alle volte. Loro definiscono barbara la tua razza, Conan di Cimmeria. Noi non vendiamo i nostri figli, ringhiò lui, il mento proteso con espressione truculenta. Beh, io sono stata venduta. Però l'uomo del deserto non mi trattò male. Desideravo ottenere la benevolenza di Shah Murat. E io fui tra i doni che portò ad Akif dai giardini purpurei. Poi... rabbrividì e nascose il viso tra le mani. Dovrei aver perso ogni pudore, disse poco dopo. Eppure ogni ricordo mi ferisce come la frusta del negriero. Abitai nel palazzo di Shah Murat, fino a quando alcune settimane fa lui se ne andò con il suo esercito a dare battaglia a una banda di invasori che stavano depredando i confini di Turan. Ieri, tornato in trionfo, gli venne tributata una grande festa per rendergli onore. Grazie all'ubriachezza e ai festeggiamenti, trovai un'opportunità per fuggire. Però Murat mi seguì e verso mezzogiorno mi raggiunse. Ero sfuggita ai suoi uomini, ma non a lui. Poi sei arrivato tu. Ero nascosto nel canneto, bofonchiò il barbaro. Io ero uno di quei furfanti dissoluti, i liberi compagni, che bruciavano e saccheggiavano lungo i confini. Eravamo 5.000, di molte razze e tribù. La maggior parte di noi avevano servito come mercenari per un principe ribelle di Kot. E quando questi fece la pace con il suo maledetto sovrano, ci trovammo senza lavoro. Così ci mettemmo a depredare imparzialmente i circostanti domini di Kot, Zamora e Turan. Una settimana fa, Shah Murat ci intrappolò nei pressi delle sponde dell'Ilbars con 15.000 uomini. Per Mitra, il cielo era oscurato dagli avvoltoi. Quando lo schieramento si frantumò, dopo un'intera giornata di battaglia, alcuni cercarono di fuggire verso nord, altri verso ovest. Dubito che qualcuno ce l'abbia fatta. Le steppe erano ricoperte di cavalieri che inseguivano i fuggiaschi. Io fuggii verso est e finalmente raggiunsi il bordo delle paludi che circondano questa parte del Vilayet. Da allora sono rimasto nascosto nell'acquitrino. Solo 2 giorni fa i cavalieri hanno smesso di battere i canneti in cerca di fuggiaschi come me. Ho strisciato, mi sono infilato nei buchi e nascosto come un serpente cibandomi di topi muschiati che catturavo e mangiavo crudi per mancanza di un fuoco dove cucinarli. All'alba di oggi ho trovato questa barca nascosta tra le canne. Non avevo intenzione di avventurarmi in mare fino a questa sera. Dopo aver ucciso Shah Murat, so che i suoi cani in armatura mi saranno alle calcagna. E adesso? Senza dubbio saremo inseguiti. Anche se non scopriranno le tracce lasciate dalla barca e che ho cercato di nascondere nel miglior modo possibile, capiranno comunque che abbiamo preso il mare, dopo che non saranno riusciti a trovarci nelle paludi. Però abbiamo un certo vantaggio e non smetterò di remare fino a quando non troveremo un posto sicuro. Dove troveremo un posto simile? Chiese Olivia senza speranza. Vilayet è un mare ircaniano. Alcuni non la pensano così, disse con un ghigno cupo Conan. Specialmente gli schiavi fuggiti dalle galere e che sono diventati pirati. Ma quali sono i tuoi piani? La sponda sud-occidentale è sotto il controllo degli ircaniani per centinaia di miglia. Abbiamo ancora molta strada da fare prima di superare i loro confini settentrionali. Ho intenzione di andare verso nord, fino a quando non riterrò di averli superati. Poi volteremo verso ovest e cercheremo di sbarcare sulla sponda circondata dalle steppe deserte. Ma se incontriamo i pirati, ho una tempesta! Chiese lei. E poi potremmo anche morire di fame nelle steppe. Beh, le ricordò Conan. Non sono stato io a chiederti di venire con me. Mi spiace. Olivia chinò il capo, circondato dai capelli scuri. Pirati, tempeste, la fame. Sono tutte cose migliori della gente di Turan. Certamente. Il volto abbronzato dell'uomo divenne serio. Non ho ancora finito con loro. Rilassati, ragazza. Le tempeste sono rare sul Vilayet in questo periodo dell'anno. Se riusciremo a raggiungere le steppe, non soffriremo la fame. Sono cresciuto in una landa desolata. Erano quelle maledette paludi con il loro puzzo e gli insetti che pungono, che per poco non mi facevano impazzire. Nelle terre alte sono come a casa mia. Per quanto riguarda i pirati... Sorrise enigmaticamente e si chinò sui remi. Il sole tramontò come una palla di rame opaco in un lago di fuoco. L'azzurro del mare si confuse con quello del cielo ed entrambi divennero velluto leggermente scuro, punteggiato dalle stelle e dai loro riflessi. Olivia si distese a prua della barca, che oscillava dolcemente, in uno stato sognante e irreale. Provava l'illusione di fluttuare a mezz'aria, con le stelle sopra e sotto di lei. Il suo silenzioso compagno si stagliava vagamente contro la dolce oscurità. Non c'era variazione o esitazione nel ritmico vogare. Avrebbe potuto essere un rematore fantasma che le faceva attraversare il lago della morte. Però la paura che provava si era attenuata e, cullata dalla monotonia del movimento, Olivia cadde in un sonno tranquillo. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen alla Reggia Designer Outlet e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo Store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Pronto, Ufi? ufficio soluzioni esagerate. Buongiorno, sono Marco Quercia, falegname. Vi contatto perché le tasse mi martellano. Il carico fiscale è esagerato. Alleggeriscilo con i buoni pasto ticket Restaurant Edered, 100% deducibili per aziende e semplici da attivare. E poi li usi in tutta Italia, anche per la spesa e il food delivery. Vai su ticketrestaurant.it. Esageratamente, Edered. Quando si destò, con l'alba negli occhi, aveva una fame terribile. Era stata destata da un cambiamento del moto della barca. Conan stava riposando appoggiato ai remi, fissando oltre la ragazza. Olivia si rese conto che l'uomo aveva vogato per tutta la notte senza fermarsi e si meravigliò della sua ferrea resistenza. Si voltò per seguire lo sguardo di Conan e vide un verde muro di alberi e di cespugli sgorgare dall'acqua e curvarsi ampiamente racchiudendo una piccola baia, le cui acque erano tranquille come un vetro azzurro. «Quella è una delle molte isole che costellano questo mare interno», disse Conan. «Si ritiene che siano disabitate. Ho sentito che gli ircaniani le visitano raramente. Inoltre tengono le loro galee sotto costa. Noi ci siamo addentrati in profondità nel mare. Prima del tramonto avevamo già perso di vista la linea di costa». Con poche vogate, Conan portò la barca a riva e legò saldamente la cima da ormeggio alla radice arcuata di un albero che spuntava dall'acqua. Sbarcando, allungò una mano per aiutare Olivia. La ragazza la strinse rabbrividendo appena per il sangue che vi si trovava rappreso e provando un pizzico della forza dinamica che albergava nei muscoli del barbaro. Una sognante tranquillità alleggiava nei boschi che circondavano la baia azzurra. Poi da qualche parte, molto addentro tra gli alberi, un uccello levò il suo canto mattutino. Una brezza fece stormire le foglie. Olivia si trovò ad ascoltare con attenzione qualcosa che non riconobbe. Cosa poteva celarsi tra quei boschi sconosciuti? Mentre scrutava timidamente tra le ombre in mezzo agli alberi, qualcosa si stagliò contro il sole con un rapido turbinio d'ali. Un grande pappagallo si posò su un ramo fronzuto e lì ondeggiò, in una scintillante immagine di giada e cremisi. Girò il suo capo crestato di lato e fissò gli invasori con luccicanti occhi di giaietto. «Rom!» borbottò il cimmero. «Ecco il nonno di tutti i pappagalli! Deve avere almeno 1000 anni! Guarda la malvagia saggezza dei suoi occhi! Quali misteri custodisci, saggio demone?» Improvvisamente l'uccello allargò le ali color di fiamma e, levandosi dal suo trespolo, strillò con voce roca. «Yog kolan yogtaksutalla!» E con uno stridore selvaggio, orribilmente simile a una risata umana, volò via tra gli alberi, svanendo nelle ombre opalescenti. Olivia lo seguì con lo sguardo, sentendo la fredda mano di una sconosciuta premonizione scivolargli lungo la spina dorsale. «Cosa ha detto?» mormorò. «Parole umane, ci giurerei», rispose Conan. «Però non saprei dire in quale lingua». «Neppure io», replicò la ragazza. «Eppure deve averle imparate da labbra umane. Umane o...» Fissò la fortezza di foglie e rabbrividì leggermente, senza sapere perché. «Per Crom, ho fame», grugnì il cimmero. «Potrei mangiarmi un bue intero. Cercheremo della frutta. Però prima voglio liberarmi di questo fango e sangue secco. Nascondersi nelle paludi è una brutta cosa». Così dicendo posò la spada e, avanzando nell'acqua azzurra fino alle spalle, fece le sue abluzioni. Quando riemerse, le sue perfette membra abbronzate brillavano, i suoi fluenti capelli neri non erano più incrostati, i suoi occhi azzurri, sebbene bruciassero di un fuoco inestinguibile, non erano più offuscati o iniettati di sangue. Però la felina agilità dei suoi arti e il pericoloso aspetto dei suoi lineamenti non erano cambiati. Riallacciandosi nuovamente la spada, Conan fece cenno alla ragazza di seguirlo e insieme lasciarono la spiaggia passando sotto le volte fronzute dei grandi rami. Calpestavano un tappeto di erbetta verde che smorzava il rumore dei loro passi. Tra i tronchi degli alberi colsero fuggenti immagini di fiaba. Poco dopo Conan emise un grugnito di piacere alla vista di globi dorati e color ruggine che pendevano a grappoli tra le foglie. Indicando alla ragazza di sedersi sul tronco di un albero caduto, le riempì il grembo di delicatezze esotiche E poi anche lui si dedicò ai frutti con evidente soddisfazione. Peristar, disse Conan tra un boccone e l'altro. È da Ilbars che ho vissuto ratti e radici estratte dal fango puzzolente. Questa frutta è dolce per il palato, anche se non molto sostanziosa. Tuttavia, se ne mangiamo sufficienza, servirà allo scopo. Olivia era troppo impegnata per replicare. Smorzata la parte più acuta della sua fame, il cimmero iniziò a osservare la sua bella compagna con più interesse di prima, notando il lussureggiante ammasso di capelli scuri, il colore ambrato della pelle liscia e i rotondi contorni della sua figura, che la corta tunica di seta metteva pienamente in evidenza. Terminando il pasto, l'oggetto dell'esame di Conan sollevò lo sguardo e incontrò i suoi occhi ardenti. Olivia arrossì e i resti del frutto le scivolarono dalle dita. Senza fare alcun commento, Conan indicò con un gesto che avrebbero dovuto continuare le loro esplorazioni e Olivia, alzandosi, lo seguì tra gli alberi fino a una radura il cui limitare opposto era circondato da un fitto boschetto. Quando si trovarono all'aperto, ci fu uno schianto nel boschetto e Conan, balzando di lato e trascinando la ragazza con sé, salvò le vite di entrambi, scansando per pochissimo qualcosa che lacerò l'aria e colpì il tronco di un albero con un impatto poderoso. Sguainando la spada, Conan attraversò di corsa la radura e si tuffò nel boschetto. Cadde il silenzio mentre Olivia si rannicchiava sul prato, terrorizzata e scioccata. Poco dopo Conan emerse, il volto scolpito dalla perplessità. Non c'è nulla in quella macchia d'alberi, ringhiò. Però qualcosa c'è stato. Studiò il proiettile che gli aveva mancati per così poco e grugnì incredulo, come se fosse incapace di credere ai propri sensi. Si trattava di un grosso blocco di pietra verdastra che giaceva sul terreno ai piedi di un albero il cui legno era stato scheggiato dall'impatto. Una strana pietra da trovare su un'isola disabitata, ringhiò Conan. Gli occhi sperduti di Olivia si dilatarono per lo stupore. La pietra era un blocco simmetrico, indiscutibilmente tagliato e modellato da mani umane. Ed era sorprendentemente massiccio. Il cimmero l'afferrò con entrambe le mani e con le gambe puntellate e i muscoli delle braccia in rilievo e tesi al massimo, lo sollevò sopra la testa cercando di scagliarlo lontano, sforzando ogni suo nervo e muscolo. Il blocco cadde a pochi piedi dal barbaro. Conan imprecò. Nessun uomo vivente potrebbe scagliare quella roccia attraverso l'intera radura. È un'impresa per una macchina d'assedio. Eppure qui non ci sono né catapulte né baliste. Forse è stata lanciata da lontano da una macchina simile, suggerì la ragazza. Conan scosse il capo. Non è piovuta dall'alto. È venuta da quel boschetto laggiù. Vedi come sono rotti i rami? È stata lanciata come fa un uomo con un sassolino. Ma da chi? Da cosa? Vieni. Olivia lo seguì esitante nella macchia d'alberi. All'interno del cerchio esterno di fitti cespugli, il sottobosco cresceva meno denso. Un silenzio totale gravava su ogni cosa. Il molle terriccio non mostrava impronte, eppure il macigno era stato scagliato da quel misterioso boschetto, rapido e mortale. Conan si chinò più vicino al terreno, dove l'erba era schiacciata qua e là. Scosse irosamente il capo. Persino ai suoi occhi attenti non si palesava alcun indizio di cosa si fosse trovato o avesse calpestato quel luogo. Il suo sguardo esaminò il tetto verde sopra le loro teste. Un solido soffitto di spesse foglie e di rami intrecciati. E Conan si bloccò improvvisamente. Poi, alzandosi con la spada in mano, incominciò ad arretrare spingendo Olivia dietro di sé. «Fuori di qui, presto!» la incitò con un bisbiglio che congelò il sangue della giovane donna. «Cosa c'è? Cosa hai visto?» «Nulla!» rispose guardingo il barbaro, senza fermare la sua cauta ritirata. «Allora cosa c'è? Cosa si nasconde in questo boschetto?» «La morte!» rispose Conan, lo sguardo ancora fisso sulle incombenti volte verdi che coprivano il cielo. Una volta usciti dalla macchia, Conan prese la mano di Olivia e la condusse rapidamente attraverso gli alberi, diradandosi fino a quando non cominciarono ad affrontare un pendio erboso punteggiato da radi alberi, per emergere su un basso plateau dove l'erba cresceva più alta e gli alberi erano sempre meno e ancora più sparsi. E nel mezzo del plateau sorgeva una lunga e ampia struttura di pietra in rovina, pietra verdastra. La fissarono stupefatti. Nessuna leggenda citava un simile edificio in nessuna isola del Vilayet. Si avvicinarono quindi cautamente, vedendo il muschio e i licheni avvinghiati alle rocce e il tetto sfondato aperto verso il cielo. Su tutti i lati si trovavano frammenti e schegge di pietra seminascosti nell'erba ondeggiante e che davano l'impressione che un tempo molti edifici sorgessero in quel luogo, forse un'intera città. Però adesso solamente la lunga struttura si stagliava contro il cielo e le sue mura pendevano malamente tra i rampicanti contorti. Qualunque portale avesse un giorno chiuso i suoi ingressi era ormai marcito da tempo. Conan e la sua compagna giunsero nell'ampio ingresso e guardarono all'interno. La luce del sole filtrava attraverso buchi nelle pareti e nel tetto, rendendo l'interno un fioco intrecci di luci e ombre. Stringendo forte la spada, Conan entrò con il passo felpato di una pantera in caccia, la testa abbassata e il piede silenzioso. Olivia lo seguì in punta di piedi. Una volta all'interno, Conan grugnì per la sorpresa e Olivia soffocò un grido. «Guarda! Oh, guarda!» «Vedo!» rispose il cimmero. «Non c'è nulla da temere. Sono statue!» «Però, come sono reali! E che malvagità!» mormorò la ragazza stringendosi a Conan. Si trovavano in una grande sala, il cui pavimento di pietra levigata era ricoperto di polvere di pietre frantumate cadute dal soffitto. I rampicanti che crescevano tra le pietre celavano i buchi. L'alto tetto piatto era sostenuto da spesse colonne, disposte in file lungo i lati delle pareti. E in ogni spazio tra una colonna e l'altra si trovava una bizzarra figura. Si trattava di statue, apparentemente di ferro, nere e lucenti come se fossero continuamente lucidate. Avevano dimensioni umane e raffiguravano uomini alti e possenti dai volti crudeli e affilati. Erano nudi e ogni rigonfiamento, depressione e contorno di giuntura e di muscolo era rappresentata con incredibile realismo. Però la caratteristica più umana erano i loro orgogliosi visi intolleranti. Ogni statua proveniva da uno stampo diverso. Ogni viso possedeva le proprie caratteristiche individuali, sebbene tra tutti ci fosse una somiglianza tribale. Non c'era alcuna monotona uniformità tipica dell'arte decorativa, almeno nei loro volti. «Sembrano stare in ascolto e in attesa», mormorò a disagio la ragazza. Conan batté il pomolo della sua spada contro una delle statue. «Ferro!» sentenziò. «Però per Crom, da quale stampo sono state ricavate?» Scosse il capo e strinse le spalle massicce con perplessità. Olivia si guardò timidamente attorno nella grande sala silenziosa. Solo le pietre avvolte dall'edera, le colonne avviluppate dai rampicanti e le scure figure incombenti incontrarono il suo sguardo. La ragazza si mosse a disagio, desiderosa di andarsene, ma le statue esercitavano uno strano fascino sul suo compagno. Conan le esaminò in dettaglio e nello stile di un barbaro cercò di spezzarne gli arti. Però il loro materiale resistette a tutti i suoi sforzi. Non riuscì né a sfigurare né a spostare dalla sua nicchia una singola statua. Alla fine desistette, imprecando per lo stupore. «Che razza di uomini hanno fatto da modelli per queste?» chiese a se stesso. «Queste figure sono nere, però non hanno i lineamenti dei neri. Non ho mai visto gente simile!» «Andiamocene alla luce del sole!» lo incitò Olivia. E Conan annuì, rivolgendo un'occhiata perplessa alle cupe figure lungo le pareti. Così uscirono dalla sala oscura, trovandosi sotto il chiaro sfolgorio del sole estivo. Olivia fu sorpresa di notare la posizione dell'astro nel cielo. Avevano passato nelle rovine molto più tempo di quanto avesse pensato. «Torniamo alla barca!» suggerì. «Qui ho paura. È un luogo strano e malvagio. Non possiamo sapere quando potremmo essere attaccati da chiunque ci ha lanciato la roccia. Credo che saremo al sicuro, fin tanto non saremo sotto gli alberi, rispose Conan. Vieni. Il plateau, le cui pareti scendevano verso le sponde boscose a est e a sud, salivano verso l'alto a nord, fino a un ammasso di pareti rocciose, il punto più alto dell'isola. Conan si fece strada in quella direzione, adattando il suo lungo passo all'andatura della sua compagna. Di tanto in tanto il suo sguardo si posava iperscrutabile su di lei, e Olivia ne era consapevole. Raggiunsero l'estremità settentrionale del plateau e rimasero a fissare la rapida salita della parete. Gli alberi crescevano fitti lungo il bordo del plateau a est e a ovest della parete e si protendevano nel vuoto. Conan fissò con sospetto quegli alberi, ma iniziò l'ascesa aiutando la sua compagna a salire. Il pendio non era ripidissimo, né interrotto da cenge e massi. Il cimmero, nato in un paese montagnoso, avrebbe potuto salire correndo come un gatto, ma Olivia trovò l'impresa difficile. Più e più volte si sentì sollevata di peso e fatta passare oltre qualche ostacolo che avrebbe fiaccato la sua forza se avesse dovuto scavalcarlo. E il suo stupore nei confronti della possente forza fisica dell'uomo crebbe a dismisura. Non trovava più ripugnante il suo tocco. C'era una promessa di protezione nella sua presa d'acciaio. Alla fine si trovarono sull'ultimo pinnacolo, i capelli scarmigliati dal vento marino. Ai loro piedi la parete precipitava ripidamente verso il basso per 300 o 400 piedi, fino a uno stretto groviglio boscoso che circondava la spiaggia. Guardando verso sud, videro l'intera isola che aveva la forma di un grande specchio ovale, i cui bordi smussati scendevano ripidamente in una bordura verde, tranne dove sorgeva il picco della scogliera. Fin dove poteva giungere il loro occhio su ogni lato, si stendevano le acque azzurre, calme, placide, che svanivano in una foschia sognante. Il mare è calmo, sospirò Olivia. Perché non riprendiamo nuovamente il nostro viaggio? Conan, in posa come una statua di bronzo sulla scogliera, indicò verso nord. Aguzzando la vista, Olivia vide un puntolino bianco che sembrava essere sospeso nella dolorosa foschia. Cos'è? Una vela. Ircaniana. Come si fa a dire a questa distanza? Getteranno l'ancora qui. Perlustreranno l'isola alla nostra ricerca. Strillò la ragazza in preda al panico. Ne dubito. Vengono da nord. Non possono essere alla nostra ricerca. Potrebbero fermarsi per qualche altro motivo, nel qual caso dovremo nasconderci nel miglior modo possibile. Però credo che siano pirati, oppure una galea ircaniana di ritorno da qualche scorreria a nord. Nel secondo caso è difficile che gettino l'ancora qui. Però non possiamo rimetterci in mare fino a quando non saranno fuori vista, perché stanno venendo dalla direzione verso cui dobbiamo andare. Senza dubbio supereranno l'isola questa notte e all'alba potremo andarcene per la nostra strada. Dobbiamo trascorrere la notte qui. Olivia rabbrividì. È la cosa più sicura da fare. Allora dormiamo qui, fra i dirupi. Lo incalzò. Conan scosse il capo, fissando gli alberi striminziti, i boschi ordinati sottostanti, una massa verde che sembrava protendere tentacoli alla disperata ricerca di scalare le pareti della scogliera. Ci sono troppi alberi. Dormiremo tra le rovine. Olivia gemette per protestare. Non c'è nulla che possa farti del male laggiù. L'ammansì lui. Chiunque ci abbia scagliato la pietra non ci ha seguiti fuori dai boschi. Non c'era alcuna traccia che indicasse la tana di qualche creatura selvatica nelle rovine. Inoltre tu hai la pelle delicata, sei abituata ad avere un tetto sulla testa e delle comodità. Io potrei dormire nudo nella neve e non provare alcun fastidio, ma la rugiada ti farebbe venire i crampi se dovessimo dormire all'aperto. Olivia accondiscese con rassegnazione ed entrambi discesero la scogliera attraversando il plateau e ancora una volta si avvicinarono alle cupe e antiche rovine. Per quell'ora il sole stava calando dietro il bordo del terrazzo. Avevano trovato dei frutti sugli alberi vicino alla scogliera e con quelli si sfamarono e dissetarono per cena. La notte meridionale calò rapida, punteggiando il cielo blu scuro di grandi stelle bianche, e Conan entrò nelle tenebrose rovine tirandosi dietro la riluttante Olivia. La ragazza tremava alla vista di quelle tese ombre nere nelle loro nicchie lungo le pareti. Nell'oscurità appena sfiorata dalla luce delle stelle, non riusciva a distinguere le sagome, poteva solo percepire la loro posizione di attesa. attesa che avevano protratto per secoli immemorabili. Conan aveva portato una grande bracciata di teneri rami fronzuti. Li accumulò per costruire un comodo giaciglio per la ragazza, che vi si adagiò con la curiosa sensazione di qualcuno che si mette a dormire nella tana di un serpente. Quali che fossero le premonizioni di Olivia, Conan non sembrò condividerle. Il cimmero si sedette accanto a lei, la schiena appoggiata contro un pilastro, la spada di traverso sulle ginocchia. I suoi occhi brillavano nel crepuscolo come quelli di una pantera. «Dormi, ragazza», le disse. «Il mio sonno è leggero come quello di un lupo. Nulla può entrare in questa sala senza svegliarmi». Olivia non replicò. Dal suo letto di foglie osservava la figura immobile, indistinta nella morbida oscurità. Com'era strano aver fatto comunella con un barbaro, essere curata e protetta dall'appartenente a una razza le cui storie l'avevano spaventata quando era bambina. Conan veniva da genti sanguinarie, cupe e feroci. La sua affinità con la natura selvaggia era evidente in ogni sua azione. Ardeva nei suoi occhi fiammeggianti. Eppure non le aveva fatto del male, mentre il suo peggiore oppressore era stato un uomo che il mondo definiva civilizzato. Mentre un delizioso languore si impadroniva delle sue membra rilassate e si abbandonava alle spumose onde del sonno, il suo ultimo pensiero da sveglia fu il sonnolento ricordo del solido tocco delle dita di Conan sulla sua morbida pelle. Due. Olivia sognò, e attraverso i suoi sogni strisciò un male nascosto, simile a un nero serpente strisciante, in un giardino fiorito. I suoi sogni erano frammentari e colorati, esotiche schegge di un disegno spezzato e sconosciuto, fino a quando non si cristallizzarono in una scena orribile e folle, stagliata contro uno sfondo di pietre ciclopiche e di colonne. Olivia vide una grande sala, il cui alto soffitto era sostenuto da colonne di pietra allineate in file ordinate lungo le pareti massicce. Tra i pilastri svolazzavano grandi pappagalli verdi e scarlatti, e la sala era affollata da guerrieri dalla pelle nera e dai visi affilati. Non erano neri, e neppure i loro abiti o le loro armi assomigliavano a qualcosa del mondo che la sognatrice conoscesse. Si stringevano attorno a qualcuno legato a una colonna, un giovane snello e dalla pelle bianca, con un'aureola di ricci biondi attorno alla fronte d'alabastro. La bellezza di quel giovane non era totalmente umana, sembrava piuttosto il sogno di un dio cesellato nel marmo vivente. I guerrieri neri ridevano di lui, lo sbeffeggiavano e lo insultavano in una lingua strana. La forma snella e nuda si contorceva sotto le loro mani crudeli. Il sangue sgorgava dalle cosce d'avorio, gocciolando sul pavimento lucido. Le grida della vittima echeggiavano per tutta la sala. Poi, sollevando la testa verso il soffitto e il cielo sopra di esso, gridò un nome con voce terribile. Un pugnale, stretto da una mano d'ebano, interruppe brutalmente il suo grido e la testa dorata cadde sul petto bianchissimo. Come se giungesse in risposta a quel grido disperato, un tuono esplose simile a un carro celeste e una figura comparve davanti agli assassini, come se si fosse materializzata dal nulla. La forma era quella di un uomo, ma nessun uomo mortale aveva mai posseduto una simile bellezza disumana. C'era un'inconfondibile rassomiglianza tra lui e il giovane che penzolava senza vita dalle catene, ma la parte umana che smussava la divina bellezza del giovane mancava nei lineamenti dello straniero, terribili e immobili nel loro splendore. I neri arretrarono di fronte a lui, gli occhi ridotti a fessure di fuoco. Sollevando una mano, l'apparizione parlò e le sue parole echeggiarono in tutta la sala silenziosa con profonde e ricche onde sonore. Come uomini in trance, i guerrieri neri arretrarono fino a quando non si disposero lungo le pareti in file regolari. A quel punto, dalle labbra cesellate dello straniero, eruppe un'invocazione terribile e comandò: «Yo Conan Yotakshutala! Davanti all'esplosione di quel grido terribile, le figure nere si irrigidirono come paralizzate. Le loro membra furono percorse da una curiosa rigidità, una pietrificazione naturale. Lo straniero toccò il corpo afflosciato del giovane e le catene si spezzarono. Prese il cadavere tra le braccia, poi, prima di andarsene, il suo sguardo tranquillo si posò nuovamente sulle silenziose file di figure d'ebano e indicò la luna che scintillava attraverso le finestre. E quelle figure in attesa, che erano stati uomini, capirono. Olivia si destò, alzandosi dal suo letto di rami, mentre un sudore freddo le imperlava la pelle. Il cuore le batteva forte nel silenzio. Si guardò spaurita attorno. Conan dormiva contro il pilastro, la testa reclinata sul petto massiccio. La luce argentea della luna calante strisciava attraverso il soffitto spezzato, gettando lunghe strisce bianche lungo il pavimento polveroso. Olivia poteva vedere appena le statue, nere, in attesa. Lottando per scacciare un crescente attacco isterico, vide i raggi lunari cadere appena sui pilastri e le forme in mezzo a loro. Cos'era stato? Un tremore tra le ombre dove si era andata a posare la luce della luna. Un orrore paralizzante avvolse la ragazza, perché là dove si sarebbe dovuta trovare l'immobilità della morte c'era stato un movimento, una lenta contrazione, una flessione e un contorcimento di arti d'ebano. Un grido terribile ruppe dalle labbra di Olivia quando spezzò i legami che la rendevano muta e immobile. Al suo grido Conan balzò in piedi, i denti scintillanti e la spada sollevata. «Le statue! Oh mio Dio! Le statue stanno tornando in vita!» E con quell'urlo attraversò una spaccatura nel muro, sfondando selvaggiamente i rampicanti, e corse, alla cieca, urlando follemente, fino a quando qualcosa non l'afferrò per un braccio e la fermò all'improvviso. Olivia urlò e lottò contro le braccia che la bloccavano, fino a quando una voce familiare non attraversò la nebbia del suo terrore e la ragazza vide il volto di Conan, una maschera di stupore al chiaro di luna. «In nome di Crom, ragazza, cosa ti è preso? Hai avuto un incubo?» La voce dell'uomo suonava strana e lontana. Con un gemito tra i singhiozzi, Olivia gettò le braccia attorno allo spesso collo del cimbero e lo strinse convulsamente, piangendo e ansimando. «Dove sono? Ci hanno seguiti!» «Nessuno ci ha seguiti!» rispose Conan. Olivia si sedette ancora avvinghiata all'uomo e si guardò attorno terrorizzata. La sua fuga alla cieca l'aveva portata fino al margine meridionale del plateau. Proprio sotto di loro si trovava il pendio, dalla base mascherata dalle fitte ombre della giungla. Dietro di loro vide le rovine incombenti sulla luna evanescente. «Non hai visto le statue muoversi, alzare le mani, i loro occhi brillare nell'oscurità?» «Non ho visto nulla», rispose a disagio il barbaro. «Dormivo più profondamente del solito. Era da molto che non riposavo per una notte intera. Eppure non credo che qualcosa possa essere entrato nella sala senza svegliarmi.» «Non è entrato nulla.» Una risata isterica sfuggì dalle labbra di Olivia. «Era qualcosa già dentro la sala? Oh, Mitra, ci siamo messi a dormire in mezzo a loro come pecore al mattatoio!» «Di cosa stai parlando?» le domandò Conan. «Mi sono svegliato al tuo grido, ma prima di riuscire a dare un'occhiata in giro, ti ho vista fuggire attraverso la spaccatura nel muro. Ti ho inseguito temendo che potessi farti del male. Ho creduto che avessi avuto un incubo.» «È così!» rabbrividì. «Però la realtà era più orribile del sogno. Ascolta!» E narrò tutto ciò che aveva sognato e creduto di vedere. Conan ascoltò attentamente. Il naturale scetticismo dell'uomo smaliziato non faceva parte della sua natura. La sua mitologia conteneva ghoul, goblin e negromanti. E quando Olivia ebbe finito, Conan sedeva silenzioso, giocherellando con fare assente con la sua spada. «Il giovane che torturavano era simile all'uomo alto che è arrivato dopo?» le chiese finalmente. «Come il figlio somiglia al padre», rispose Olivia e poi aggiunse esitante. «Se la mente riuscisse a concepire il frutto dell'unione di una divinità con un essere umano, la immaginerebbe con l'aspetto del giovane. Gli dei dei tempi antichi alle volte si accoppiavano con donne mortali. Così dicono le nostre leggende.» «Quali dei?» borbottò Conan. «Quelli senza nome, dimenticati. Chi lo sa? Sono ritornati nelle tranquille acque dei laghi, nei pacifici cuori delle colline, nei golfi oltre le stelle. Gli dèi non sono certo più stabili degli uomini. Però se quelle figure fossero uomini trasformati in immagine di ferro da qualche dio o demone, come potrebbero tornare in vita? La luna è stregata, disse Olivia rabbrividendo. Lui indicò la luna. Quando la luna brilla su di loro, essi vivono. Credo sia così. Però non siamo stati inseguiti, borbottò Conan fissando le cupe rovine. Forse hai solo sognato che si muovessero. Ho intenzione di ritornare là per vedere. No, no! Gridò la ragazza stringendosi a lui disperatamente. Forse l'incantesimo che li blocca li trattiene nella sala. Non tornare indietro, ti faranno a pezzi. Oh Conan, prendiamo la nostra barca e fuggiamo da questa orribile isola. Sicuramente la nave Hyrkaniana ci avrà superati a quest'ora. Andiamocene! Conan rimase colpito dalle disperate invocazioni della ragazza. La sua curiosità riguardo le statue era in bilico con la sua superstizione. Non temeva nemici di carne e di sangue, per quanto grandi potessero essere le difficoltà. Però qualunque accenno al soprannaturale faceva sorgere in lui tutti i vaghi e mostruosi istinti che erano retaggio del barbaro. Prese la mano della ragazza e scesero lungo il pendio, tuffandosi nei fitti boschi dove le foglie sussurravano e sconosciuti uccelli notturni mormoravano assonnati. Sotto gli alberi le ombre si addensavano fitte e Conan voltò bruscamente per evitare una macchia più densa. I suoi occhi esploravano continuamente da un lato all'altro e spesso volavano ai rami sopra di loro. Avanzava rapidamente, ma cauto, e il suo braccio cingeva la vita della ragazza così fermamente che lei si sentiva come se venisse trasportata piuttosto che guidata. Nessuno dei due parlava. L'unico suono prodotto era il nervoso e rapido ansare della ragazza e il fruscio dei suoi piccoli piedi sull'erba. Così sbucarono dagli alberi sul bordo dell'acqua, scintillante come argento fuso alla luce della luna. «Avremmo dovuto portarci della frutta da mangiare», borbottò Conan. «Però troveremo certamente delle altre isole. Tanto vale partire adesso. Mancano solo poche ore all'alba». La sua voce si smorzò. Il cavo d'attracco era ancora strettamente legato alla radice sporgente, però all'altro capo c'era solo un rottame distrutto per metà sommerso nell'acqua bassa. A Olivia sfuggì un grido soffocato. Conan si girò fulmineamente e affrontò le fitte ombre. La sua era un'immagine minacciosa pronta a balzare. Il rumore degli uccelli notturni tacque improvvisamente. Una calma inquietante regnava sopra la foresta. Nessuna brezza smuoveva i rami, eppure, da qualche parte, le foglie si agitarono debolmente. Rapido come una pantera, Conan prese Olivia e corse via. Il barbaro si tuffò tra le ombre come un fantasma, mentre da qualche parte, sopra e attorno a loro, tra le foglie, risuonò uno strano fruscio che si avvicinava sempre di più. Poi la luce della luna esplose in pieno sui loro visi, mentre i due si stavano affrettando lungo il pendio del plateau. Sulla cresta Conan poggiò a terra Olivia e si girò a fissare il golfo di ombre che avevano appena abbandonato. Le foglie si agitarono per una brezza improvvisa. Era tutto. Conan scosse il capo con un ringhio irato. Olivia strisciò fino ai suoi piedi come un bimbo impaurito e gli occhi della ragazza lo guardarono, scuri pozzi di terrore. «Cosa dobbiamo fare, Conan?» sussurrò. Il cimmero scrutò le rovine, poi fissò nuovamente i boschi sottostanti. «Andremo sulla scogliera», dichiarò sollevandola in piedi. «Domani costruiremo una zattera e affideremo nuovamente le nostre fortune al mare». «Non è che loro hanno distrutto la nostra barca?» Era una mezza domanda, ma anche una mezza affermazione. Il barbaro scosse il capo, cupo e taciturno. Ogni passo sulla via che attraversava quel plateau illuminato dalla luna fu un angosciante orrore per Olivia, anche se nessuna forma tenebrosa sgattaiolò furtivamente dalle rovine incombenti. E alla fine raggiunsero i piedi delle scogliere che si ergevano nude e cupamente maestose sopra di loro. Là Conan si fermò, come se fosse stato colto da incertezza, scegliendo alla fine un luogo riparato da un'ampia sporgenza lontano da ogni albero. «Distenditi e cerca di dormire, Olivia», le disse. «Io farò la guardia». Però Olivia non riuscì a prendere sonno e rimase distesa a fissare le lontane rovine e il bordo della foresta, fino all'impallidire delle stelle, al chiarore dell'oriente e al sorgere dell'alba rosa e oro che strappava fiamme dalla rugiada sugli steli d'erba. La ragazza si alzò irrigidita. La sua mente ritornò a tutto ciò che era accaduto durante la notte. Alla luce del mattino, alcune delle sue paure sembravano simili a frutti di un'immaginazione eccessiva. Conan le si avvicinò e le sue parole la elettrizzarono. «Proprio prima dell'alba ho sentito lo scricchiolio del fasciame e il raspare e lo schioccare di corde e di remi. È arrivata una nave e ha gettato l'ancora di fronte a una spiaggia poco distante. Probabilmente la nave di cui abbiamo visto la vela ieri. Saliremo fino in cima alla scogliera e la spieremo». Si inerpicarono e pancia in giù, in mezzo ai massi, videro un albero maestro dipinto spuntare oltre gli alberi a occidente. «Una nave ircaniana, a giudicare dalla foggia del Sartiame», borbottò Conan. «Mi chiedo se l'equipaggio...» Un lontano guazzabuglio di voci raggiunse le loro orecchie. Strisciando fino al bordo meridionale della scogliera, videro un'orda variopinta emergere dal limitare degli alberi lungo il bordo occidentale del plateau, dove si fermò a discutere. C'era un grande scintillio di armi, di spade brandite e sonori e volgari litigi. Poi tutta la banda si mosse verso le rovine, in una direzione che li avrebbe portati vicino ai piedi della scogliera. «Pirati!» sussurrò Conan con un sorriso cupo sulle labbra sottili. «Hanno catturato una galea ircaniana. Qui, scivola tra quelle rocce. Non farti vedere a meno che non ti chiami», la istruì, e dopo averla nascosta in maniera soddisfacente in mezzo a un ammasso di macigni lungo la cresta della scogliera, «andrò incontro a quei cani. Se il mio piano avrà successo, andrà tutto bene e salperemo con loro. Se non dovesse aver successo, beh, nasconditi tra le rocce fino a quando non se ne saranno andati, perché nessun diavolo su quest'isola è più crudele di quei lupi di mare». E staccatosi dalla presa riluttante della ragazza, si mosse rapidamente lungo la scogliera. Scrutando timorosamente dal suo alto rifugio, Olivia vide che la banda si era avvicinata ai piedi della scogliera. Proprio mentre guardava, Conan uscì allo scoperto dai massi e li fronteggiò con la spada in pugno. I pirati arretrarono con grida di minacce e di sorpresa. Poi si fermarono incerti a fissare quella figura che era apparsa così improvvisamente dalle rocce. Erano circa una settantina, un'orda selvaggia composta da uomini di molte nazioni: Cotiani, Zamorani, Brituniani, Corintiani, Scemiti. I loro lineamenti riflettevano la loro natura selvaggia. Molti portavano i segni della frusta o dei ferri roventi. C'erano orecchie mozzate, nasi tagliati, orbite vuote, mozziconi di polsi, segni di torture ma anche di battaglie. La maggior parte erano seminudi, ma gli abiti che indossavano erano di qualità: giacche ricamate d'oro, fusciacchi di velluto, pantaloni di seta laceri e macchiati di catrame di sangue, alternati a pezzi di armature d'argento cesellato. I gioielli brillavano sui nasi, alle orecchie e sulle else dei loro pugnali. Contro quella bizzarra ciurmaglia si ergeva l'alto cimmero, che creava un forte contrasto con i suoi solidi arti abbronzati e i lineamenti vivaci e marcati. «Chi sei?» ruggirono i pirati. «Conan, il cimmero!» La sua voce era simile alla profonda sfida del leone. «Uno dei liberi compagni! Ho tentato la mia fortuna con la Fratellanza Rossa! Chi è il vostro capo?» «Io, Peristar!» ruggì una voce taurina e un'enorme figura avanzò pesantemente. Si trattava di un gigante nudo fino alla cintola, dove il suo ventre rotondo era circondato da un'ampia fusciacca che sosteneva dei voluminosi pantaloni di seta. Aveva il cranio rasato, tranne un ciuffo alla sommità, e i baffi piegati all'ingiù sopra una bocca a trappola di topo. Ai piedi calzava verdi babbucce scemite, dalle punte rivolte verso l'alto, e aveva in mano una lunga spada diritta. Conan lo fissò e gli rivolse una cupa occhiata. «Sergius di Crocia per Crom! Proprio io, Peristar!» tuonò il gigante, i piccoli occhi neri scintillanti d'odio. Credevi che ti avessi dimenticato? Ah, Sergius non dimentica mai un nemico. Adesso ti appenderò a testa in giù e ti spellerò vivo. Addosso, ragazzi! Sicuro, manda i tuoi cani contro di me, pancione! Lo schermì Conan con disprezzo. Sei sempre stato un codardo, bastardo cotiano! Codardo a me? L'ampio viso divenne nero per l'ira. In guardia, cane del nord, ti strapperò il cuore! In un istante i pirati avevano formato un cerchio attorno ai due rivali. I loro occhi ardevano e i loro fiati sibilavano tra i denti, mentre pregustavano l'imminente massacro. In alto, tra le rocce, Olivia osservava, affondando le unghie nei palmi per l'ansia e il timore. I due combattenti si affrontarono senza formalità. Sergius avanzò con uno scatto, lesto di gambe, come un gigantesco gatto nonostante la mole. Le sue imprecazioni sibilavano tra i denti serrati quando attaccava malignamente e parava. Conan combatteva in silenzio, con gli occhi ridotti a fessure di fuoco azzurro. Il cotiano smise di imprecare per risparmiare il fiato. I soli suoni erano il rapido scalpiccio di piedi sull'erba, l'ansare del pirata, il tintinnio e il clangore dell'acciaio. Le spade guizzavano come fuoco bianco nel sole del mattino, turbinando e roteando. Sembravano respie a toccarsi, poi repentinamente tornavano a cozzare. Sergius stava arretrando. Solo la sua enorme abilità l'aveva fino a quel momento salvato dalla rapidità degli assalti del cimbero. Un cozzo d'acciaio più sonoro, il fruscio di una caduta, un grido soffocato. E dall'orda dei pirati un urlo feroce si alzò a spezzare l'aria del mattino, quando la spada di Conan affondò nel massiccio corpo del capitano. La punta vibrò per un istante in mezzo alle scapole di Sergius, simile a un palmo di fuoco bianco nella luce del sole. Poi il cimmero estrasse il suo acciaio e il capo dei pirati cadde pesantemente con la faccia a terra e giacque in una pozza di sangue che si allargava vieppiù, mentre le sue grandi mani si contraevano spasmodicamente. Conan si voltò verso i corsari allibiti. «Allora, cani!» ruggì. «Ho mandato il vostro capo all'inferno! Cosa dice la legge della Fratellanza Rossa?» Prima che qualcuno potesse rispondere, un brituniano dalla faccia da topo, che si trovava dietro i suoi compagni, fece roteare rapidamente e mortalmente una fionda. La pietra volò dritta come un fuso al suo bersaglio e Conan barcollò e cadde come un alto albero cade sotto l'ascia del boscaiolo. In alto, sulla scogliera, Olivia si aggrappò ai massi per sostenersi. La scena fluttuò confusa di fronte ai suoi occhi. Tutto ciò che riuscì a vedere fu il cimmero disteso inerte sull'erba mentre il sangue gli colava dalla testa. Il pirata dalla faccia da topo lanciò un grido di trionfo e corse per pugnalare l'uomo a terra. Ma uno smilzo corintiano lo trattenne. «Ara, Tuscane! Oseresti infrangere la legge della Fratellanza?» «Non è stata infranta alcuna legge!» ringhiò il brituniano. «Nessuna legge, cane! L'uomo che hai appena colpito è per giusto diritto il nostro capitano!» «No!» strillò Aratus. «Non faceva parte della nostra banda! Era uno straniero! Non era stato ammesso nella confraternita! L'aver ucciso Sergius non lo rende capitano, come sarebbe accaduto se uno di noi lo avesse ucciso!» «Però desiderava unirsi a noi!» replicò il corintiano. «Lo ha detto!» Di fronte a quell'affermazione si levò un gran clamore. Alcuni parteggiavano per Aratus, altri per il corintiano che si chiamava Ivanos. Le imprecazioni volarono fitte, furono pronunciate delle sfide e le mani andarono alle else delle spade. Alla fine uno scemita fece sentire la sua voce sopra il clamore. «Ma perché litigare per un morto?» «Non è morto!» rispose il corintiano alzandosi da accanto al cimmero prostrato. «È stato un colpo di striscio, è solo stordito!» Al che il clamore si levò nuovamente. Aratus cercava di arrivare fino all'uomo svenuto e Ivanos, dopo essere riuscito facilmente ad anticiparlo, con la spada in mano sfidava tutto e tutti. Olivia comprese che il corintiano faceva ciò non tanto in difesa di Conan, quanto per opporsi ad Aratus. Evidentemente quei due erano stati luogotenenti di Sergius e tra loro non doveva correre buon sangue. Dopo ulteriori discussioni, venne deciso di legare Conan e di portarlo via con loro, per votare più tardi sul suo destino. Il cimmero, che stava cominciando a riprendere conoscenza, venne legato con strisce di cuoio. Poi quattro pirati lo sollevarono e tra molte rimostranze e insulti lo portarono via con la banda, che riprese nuovamente il suo cammino lungo il plateau. Il corpo di Sergius venne lasciato dove era caduto, una forma senza vita e orrida sul prato bagnato dal sole. Sulle rocce, Olivia era rimasta stordita per il disastro, era incapace di parlare o di agire e poté solo rimanere distesa lì e fissare con sguardo terrorizzato l'orda brutale che trascinava via il suo protettore. Per quanto tempo rimase là distesa, la ragazza non lo seppe mai. Vide i pirati attraversare il plateau, raggiungere le rovine ed entrarvi, portando con loro il prigioniero. Poi li vide sciamare dentro e fuori, dalle porte e dalle spaccature, sondare mucchi di detriti e scalare i muri. Dopo un po', una ventina di loro attraversò il plateau e svanì tra gli alberi sul margine occidentale, trascinando con loro il cadavere di Sergius, presumibilmente per gettarlo in mare. Gli altri, attorno alle rovine, stavano abbattendo alberi e procurandosi materiale per il fuoco. Olivia udiva le loro grida, inintellegibili per la distanza, e le voci di quelli che si erano addentrati nel bosco echeggiare tra gli alberi. Poco dopo ricomparvero portando parecchi barilotti di liquore e sacchi di pelle colmi di cibo. Si diressero quindi verso le rovine, imprecando sguaiatamente sotto quei pesi. Olivia fu solo meccanicamente consapevole di tutto ciò. La sua mente, troppo provata, era sull'orlo del collasso. Lasciata sola e senza protezione, comprese quanto significasse per lei la presenza del cimmero. Un vago stupore di fronte alle follie del fato si fece strada in lei. Un fato che poteva fare della figlia di un re la compagna di un barbaro dalle mani lorde di sangue. Con quel pensiero provò una certa repulsione verso la sua gente. Suo padre e Shah Murat erano uomini civilizzati, ma da loro aveva ricevuto solo sofferenze. Non aveva mai incontrato alcun uomo civile che l'avesse trattata con gentilezza, a meno che non celasse un secondo fine dietro le sue azioni. Conan le aveva fatto da scudo, l'aveva protetta e fino ad allora non aveva chiesto nulla in cambio. Posando la testa sulle braccia tornite, pianse fino a quando lontane grida di sfida le fecero capire il pericolo che correva. Fece correre l'occhio dalle scure rovine in cui le fantastiche figure, piccole per la distanza, ondeggiavano e fluttuavano, fino alle cupe profondità della verde foresta. Anche se la notte precedente tra le rovine le sue paure erano state dovute solo a dei sogni, la minaccia che si celava in quelle profondità verdi non era il frammento di un incubo. Se Conan fosse stato ucciso o portato via come prigioniero, non le sarebbe rimasta che una scelta tra il consegnarsi a quei lupi di mare o rimanere sole in quell'isola demoniaca. Quando l'orrore della sua situazione le si parò davanti in tutta la sua evidenza, Olivia cadde a terra svenuta. Tre. Il sole stava tramontando quando Olivia riprese i sensi. Un debole vento le portò alle orecchie grida lontane e frammenti di canzoni volgari. Alzatasi cautamente, guardò verso il plateau. Vide i pirati raccolti attorno a un grande falò all'esterno delle rovine e il suo cuore ebbe un sobbalzo quando un gruppo emerse dall'interno, trascinando qualcuno in cui riconobbe Conan. Lo buttarono contro un muro ancora legato strettamente e là iniziarono una lunga discussione con le armi sguainate. Alla fine lo riportarono all'interno delle rovine e ripresero nuovamente a ingozzarsi di birra. Olivia sospirò. Almeno sapeva che il cimmero era ancora vivo. Una rinnovata determinazione la rinvigorì. Non appena fosse calata la notte, si sarebbe diretta furtivamente verso quelle cupe rovine e lo avrebbe liberato, oppure sarebbe stata fatta prigioniera nel tentativo. E sapeva che non era solo un puro interesse egoistico a suggerirle tale decisione. Con quell'idea in testa, Olivia si avventurò fuori dal suo rifugio per raccogliere e mangiare delle bacche che crescevano rade nei pressi. Non aveva toccato cibo dal giorno prima. Mentre era intenta in quell'operazione, venne colta dalla sensazione di essere osservata. Scrutò nervosamente le rocce, poi con un brivido di sospetto scivolò fino al margine settentrionale della scogliera e guardò in basso verso l'ondeggiante massa verde già scura per il crepuscolo. Ma non vide nulla. Era impossibile che potesse essere vista da qualunque cosa che si trovasse nascosta tra gli alberi quando non era sul bordo della scogliera. Eppure percepì distintamente lo sguardo di occhi nascosti e sentì che qualcosa di vivo e senziente era consapevole della sua presenza e del suo nascondiglio. Ritornata furtivamente al suo rifugio roccioso, Olivia si distese a osservare le lontane rovine fino a quando l'oscurità notturna non glielo celò alla vista. E allora poté notarne la posizione grazie ai fuochi attorno ai quali scure figure saltavano e piroettavano incerte. Poi si alzò. Era ora di tentare il suo piano. Però per prima cosa ritornò sul bordo settentrionale della scogliera e guardò giù verso la foresta che bordava la spiaggia. E mentre aguzzava la vista nella fioca luce delle stelle, si irrigidì e una mano gelida le strinse il cuore. In basso, sotto di lei, si era mosso qualcosa. Era come se un'ombra nera si fosse staccata dal golfo di ombra in basso. Si muoveva lentamente lungo il ripido pendio, una forma vaga, indistinta nella semioscurità. Olivia venne colta dal panico e lottò contro il grido che le forzava le labbra. Voltatasi, fuggì lungo il pendio meridionale. Quella fuga lungo la scogliera tenebrosa fu un incubo nel quale la ragazza scivolò e vacillò, afferrando rocce frastagliate con dita gelide. Quando si ferì la pelle delicata e i lividi comparvero sulle sue tenere gambe a causa dei ruvidi massi sui quali Conan l'aveva sollevata così facilmente, comprese nuovamente la sua dipendenza dal barbaro dai muscoli d'acciaio. Però quel pensiero era solo uno dei tanti in un fluttuante turbinio di cupa paura. La discesa sembrava non finire mai, ma alla fine i suoi piedi toccarono il piano erboso e in un vero e proprio parossismo d'ansia Olivia volò verso il fuoco che ardeva come il rosso cuore della notte. Dietro di lei, mentre fuggiva, udì una pioggia di pietre rotolare giù dal ripido pendio e quel suono le mise le ali ai piedi. Quale tenebroso scalatore avesse provocato la frana di pietre, Olivia non osava pensarlo. L'estenuante attività fisica dissipò in qualche modo il suo cieco terrore e prima di aver raggiunto le rovine la mente di Olivia fu libera e i suoi sensi in allarme, sebbene le gambe le tremassero per lo sforzo. Si buttò sul terreno erboso e strisciò sul ventre fino a quando da dietro un piccolo albero che era sfuggito alle asce dei pirati poté osservare i suoi nemici. Avevano terminato la cena, ma stavano ancora bevendo, immergendo boccali di peltro o calici ingioiellati nelle botti di vino. Alcuni stavano già russando ubriachi sull'erba, mentre altri erano arrivati barcollando fino alle rovine. Non vide traccia di Conan. Rimase quindi distesa dov'era, mentre la rugiada si formava sull'erba attorno a lei e sulle foglie in alto, e gli uomini attorno al fuoco imprecavano, giocavano d'azzardo e litigavano. Attorno al fuoco ne erano rimasti pochi. La maggior parte era andata tra le rovine a dormire. Olivia rimase distesa a osservarli, i nervi tesi per la tensione dell'attesa, con brividi tra le scapole al pensiero di cosa la potesse stare a sua volta osservando, di cosa potesse avvicinarsi furtivo a lei. Il tempo avanzava lentissimo. Uno ad uno i gozzovigliatori sprofondarono in un sonno da ubriachi, fino a quando tutti non furono distesi privi di sensi, accanto al fuoco morente. Olivia esitò. Poi venne colta da un lontano bagliore che si levò dagli alberi. Stava sorgendo la luna. Si alzò con un gemito e si affrettò verso le rovine. La sua pelle rabbrividì mentre avanzava in punta di piedi tra le figure ubriache, distese accanto al portale spalancato. All'interno ce n'erano molti altri. Si agitavano e borbottavano, persi nei loro foschi sogni. Ma nessuno si destò mentre la ragazza scivolava accanto a loro. Un gemito di gioia si levò dalle sue labbra quando vide Conan. Il cimbaro, perfettamente sveglio, era legato a una colonna e i suoi occhi baluginavano nel debole riflesso del fuoco morente all'esterno. Scegliendo la via migliore in mezzo ai dormienti, Olivia si avvicinò al barbaro. Nonostante si fosse avvicinata silenziosamente, lui l'aveva udita, l'aveva vista quando c'era stagliata contro il portale. Un debole sorriso si disegnò sulle sue labbra. Olivia lo raggiunse e lo abbracciò per un istante. Conan sentì il rapido pulsare del cuore della ragazza contro il suo petto. Attraverso una lunga fessura nella parete entrò un raggio di luna e l'aria si caricò immediatamente di una sottile tensione. Conan la percepì e si irrigidì. Anche Olivia la percepì e gemette. I dormienti continuarono a russare. Chinatasi rapidamente, Olivia estrasse un pugnale dalla cintura del suo proprietario addormentato e iniziò a tagliare i legami di Conan. Si trattava di corde da vela, spesse, pesanti e legate con perizia di marinaio. Lavorò disperatamente, mentre la luce lunare scivolava lentamente lungo il pavimento verso i piedi delle nere figure accucciate tra i pilastri. Il respiro della ragazza si fece irregolare. I polsi di Conan furono ben presto liberi, ma i gomiti e le gambe erano ancora legati strettamente. Olivia osservò rapidamente le figure lungo le pareti, in attesa. Sembravano guardarla con l'orribile pazienza dei non morti. Gli ubriachi ai suoi piedi incominciarono ad agitarsi e a gemere nel sonno. Il chiaro di luna scivolò lungo la sala, toccando i piedi neri delle statue. Le corde caddero dalle braccia di Conan, che, tolto il pugnale dalle mani della ragazza, tagliò i legami alle gambe con un unico rapido colpo. Conan si staccò dal pilastro, flettendo gli arti e sopportando stoicamente il dolore del ritorno della circolazione. Olivia si strinse contro di lui, tremando come una foglia. Era forse per effetto della luna che toccava gli occhi delle figure nere con il fuoco che li faceva brillare rossi in mezzo alle ombre? Conan si mosse con la fulmineità di un felino della giungla. Afferrando la spada da un mucchio di armi nei pressi, sollevò Olivia senza sforzo e scivolò attraverso un'apertura che si trovava sulla parete ricoperta d'edera. Non si scambiarono una parola. Tenendo tra le braccia la ragazza, si avviò rapidamente lungo il prato illuminato dalla luna. Con le braccia strette intorno al collo d'acciaio, l'ofireana chiuse gli occhi, cullando la nera testa riccioluta contro le spalle massicce del cimmero. E venne colta da una deliziosa sensazione di sicurezza. Nonostante il fardello, Conan attraversò rapidamente il plateau e Olivia, aprendo gli occhi, vide che stavano passando sotto l'ombra della scogliera. «Qualcosa ha scalato la parete!» sussurrò. «L'ho sentita muoversi dietro di me mentre scendevo!» «Dobbiamo tentare!» grugnì Conan. «Non ho più paura, adesso!» sospirò lei. «Non avevi paura nemmeno quando sei venuta a liberarmi», rispose il cimmaro. «Crom, che giornata! Non avevo mai sentito tante liti e tanto baccano. Sono quasi diventato sordo. Aratus voleva strapparmi il cuore, mentre quel cane di Ivanos si rifiutava per ostacolare Aratus. Quel cane di Aratus voleva strapparmi il cuore, mentre Ivanos si rifiutava per ostacolare Aratus che odia. Per tutto il giorno hanno ringhiato e si sono sputati addosso l'un l'altro. Poi la ciurma è diventata rapidamente troppo ubriaca per votare per l'uno o per l'altro». Si fermò improvvisamente, un'immagine di bronzo alla luce della luna. Con un rapido gesto posò gentilmente la ragazza lateralmente dietro di sé. Olivia, caduta in ginocchio sull'erba soffice, urlò per ciò che vide. Dalle ombre della scogliera si staccò una mostruosa massa dondolante, un orrore antropomorfo, una grottesca parodia della creazione. Nelle linee generali non era dissimile da un uomo, però il suo viso, delineato dalla brillante luce della luna, era bestiale, con le orecchie ravvicinate, le narici ampie e una grande bocca dalle labbra flosce, nella quale luccicavano bianche zanne acuminate. Era ricoperto di un'ispida peluria grigia striata d'argento che scintillava al chiaro di luna, e le sue braccia deformi giungevano fin quasi a terra. La sua mole era impressionante. Così com'era, ritto sulle corte zampe arcuate, la sua testa punta si levava alta sopra quella dell'uomo che fronteggiava. La larghezza del petto villoso e delle spalle gigantesche lasciava sbalorditi. Le enormi braccia erano simili ad alberi nodosi. La scena fluttuò alla luce della luna negli occhi di Olivia. Questa dunque era la fine della pista. Infatti, quale essere umano poteva vincere la furia di quella pelosa montagna di muscoli e di ferocia? Eppure, mentre fissava con gli occhi sbarrati dall'orrore la figura bronzea che fronteggiava il mostro, Olivia percepì un'affinità tra i due antagonisti quasi stupefacente. Questa non era una lotta tra l'uomo e l'animale, ma piuttosto un conflitto tra due creature selvagge, senza pietà e feroci in pari misura. Con un lampo delle bianche zanne, il mostro caricò. Le braccia possenti si allargarono mentre la bestia caricava, sorprendentemente rapida nonostante la mole enorme e le gambe tozze. La risposta di Conan fu un guizzo che gli occhi di Olivia non riuscirono a seguire. Vide solamente che, evitata la presa mortale, la sua spada, guizzando come un lampo bianco, mozzava una di quelle braccia massicce nel punto tra la spalla ed il gomito. Un grande spruzzo di sangue lordò il terreno quando l'arto reciso cadde a terra, vibrando orribilmente. Ma persino mentre la spada colpiva, l'altra mano, deforme, si serrò attorno alla nera chioma di Conan. Solo i muscoli d'acciaio del cimmero lo salvarono dall'avere il collo spezzato in quell'istante. La sua mano sinistra volò ad afferrare la tozza gola del mostro. Il suo ginocchio sinistro venne spinto con violenza contro lo stomaco peloso della bestia. Poi iniziò una lotta terribile che durò solo alcuni secondi, ma per la ragazza paralizzata dal terrore sembrarono secoli. Lo scimmio mantenne la sua presa sui capelli di Conan, trascinandolo verso le zanne che brillavano alla luce della luna. Il cimmero resistette con il braccio sinistro rigido come il ferro, mentre la spada nella destra sferrava colpi come una mannaia, affondando più e più volte nel ventre, nel petto e nei fianchi del suo avversario. La bestia sopportò quei colpi in un terribile silenzio, apparentemente niente affatto indebolita per il sangue che le sgorgava dalle orrende ferite. Rapidamente, la terribile forza dell'antropoide sopraffece l'opposizione del braccio e del ginocchio del cimmero. Inesorabilmente il braccio di Conan si piegò sotto lo sforzo. Venne attirato sempre più vicino, verso le fauci spalancate, bramose della sua vita. Adesso gli occhi ardenti del barbaro scintillavano riflettendosi in quelli iniettati di sangue dello scimmione. Però, mentre Conan cercava di estrarre inutilmente la sua spada, affondata profondamente nel corpo peloso, le mascelle schiumanti di bava si chiusero spasmodicamente a un pollice dal volto del cimmero, che venne scagliato a terra dalle convulsioni dell'agonia del mostro. Olivia, quasi svenendo, vide lo scimmione sollevarsi, cadere pesantemente e tremare, stringendo come un essere umano l'elsa che sporgeva dal suo corpo. Un attimo ripugnante di quella scena, poi la grande massa vibrò e rimase immobile. Conan si alzò e zoppicò fino al cadavere. Il cimmero ansimava pesantemente e camminava come un uomo le cui giunture e i muscoli fossero stati tirati e piegati fino quasi al limite della sopportazione. Si toccò lo scalpo sanguinante e imprecò alla vista dei lunghi capelli neri sporchi di sangue ancora nella stretta della mano pelosa del mostro. Oh, Crom! Ansimò. Oh, mi sento come se fossi stato messo alla ruota. Avrei preferito lottare contro una dozzina di uomini. Un altro istante mi avrebbe staccato la testa a morsi. Maledetto, mi ha strappato una manciata di capelli direttamente alla radice. Stringendo l'elsa della spada con entrambe le mani, la tirò e la liberò. Olivia gli si avvicinò furtiva per stringergli il braccio e fissare con occhi sgranati il mostro disteso. Cosa? Cos'è? Mormorò. Un uomo scimmia grigio. Bofonchiò Conan. Muto e mangiatore di uomini. Abitano nelle colline che circondano il margine orientale di questo mare. In che modo uno sia riuscito a raggiungere quest'isola, io non lo so proprio. Forse vi è arrivato a cavalcioni di un tronco galleggiante, spinto lontano dalla terraferma durante una tempesta. Ed è stato lui che ci ha tirato la pietra? Sì, sospettai che fosse una di queste creature quando ci fermammo nel boschetto e vidi i rami piegarsi sopra di noi. Questi esseri si nascondono sempre nel fitto della foresta che abitano e ne escono raramente. Cosa l'abbia portato all'aperto? Non so dirlo, ma è stato un bene per noi. Non avrei avuto alcuna possibilità contro di lui tra gli alberi. Mi ha seguita, disse Olivia rabbrividendo. L'ho visto scalare la scogliera. E seguendo il suo istinto si è nascosto tra le ombre della scogliera invece di seguirti lungo il plateau. Sono creature di una specie che ama le tenebre e i luoghi silenziosi e che odia il sole e la luna. Credi che ce ne siano degli altri? No, altrimenti i pirati sarebbero stati attaccati quando attraversarono la foresta. La scimmia grigia è cauta, nonostante la sua forza, come dimostrato dalla sua esitazione nell'attaccarci nel boschetto. La sua brama di te doveva essere enorme per averlo portato ad assalirci all'aperto. Cosa? Conan ebbe un sussulto e scattò lungo la strada da cui erano arrivati. La notte era stata lacerata da un grido terribile. Proveniva dalle rovine. Immediatamente si udì una folle accozzaglia di urla, strida e grida di blasfema agonia, sebbene fossero accompagnati dal cozzare dell'acciaio. I suoni erano di massacro più che di battaglia. Conan rimase immobile, mentre la ragazza si stringeva a lui in un attacco di terrore. Il clamore salì in un crescendo di follia, e poi il cimmero si girò e si diresse rapidamente verso il bordo del plateau, i cui alberi erano illuminati dalla luna. Le gambe di Olivia tremavano tanto che non riusciva a camminare. Così il barbaro la trasportò, e il cuore della giovane rallentò il suo frenetico battito quando si accoccolò tra le sue braccia. Superarono la scura foresta, ma le pozze di tenebra non nascosero alcun orrore e gli squarci d'argento non mostrarono alcuna figura mostruosa. Gli uccelli notturni mormoravano assonnati. Le grida del massacro scemarono dietro di loro, affievolite dalla distanza in una confusa mescolanza di suoni. Da qualche parte un pappagallo stridette come un'eco bizzarra. Yakulang Yakchaksutella! Alla fine giunsero alla spiaggia bordata dagli alberi e videro la galea all'ancora, con le vele che scintillavano bianche alla luce della luna. Già le stelle stavano svanendo per il sopraggiungere dell'alba. 4. Nello spettrale biancore dell'alba, un pugno di lacere figure lorde di sangue uscì barcollando dagli alberi, comparendo sulla stretta spiaggia. Erano 44 e formavano una banda intimorita e demoralizzata. Ansimando per la fretta, si tuffarono in acqua e avevano cominciato a nuotare verso la galea, quando delle severe parole li fecero fermare. Stagliato contro il cielo che si imbiancava, videro Conan, il cimmero, in piedi sulla prua, la spada in mano, la nera capigliatura fluente nel vento dell'aurora. «Fermi!» ordinò. «Non avvicinatevi oltre! Cosa vi succede, cani?» «Facci salire a bordo!» gracchiò un ribaldo dalla folta capigliatura, toccandosi un troncone d'orecchio sanguinante. «Vogliamo andarcene da quest'isola del diavolo!» «Spaccherò il cranio del primo che cercherà di scalare la murata!» promise Conan. Erano 44 contro uno, ma il cimmero aveva il coltello dalla parte del manico. La voglia di combattere dei pirati era stata loro completamente sottratta. «Facci salire a bordo, buon Conan!» piagnucolò uno zamorano dalla fusciacca rossa, gettando un'occhiata spaventata oltre la spalla verso il bosco silenzioso. «Ah, siamo stati così percossi, morsi, graffiati e squartati, e siamo così stanchi di lottare e di correre che nessuno di noi è in grado di sollevare una spada!» «Dov'è quel cane di Aratus?» domandò Conan. «Morto, come gli altri! I diavoli ci sono saltati addosso! Ci stavano facendo a pezzi ancora prima che ci potessimo svegliare! Una buona dozzina di noi sono morti nel sonno! Le rovine erano piene di ombre dagli occhi fiammeggianti e dalle zanne e dagli artigli squarcianti! Sì!» sottolineò un altro corsaro. «Erano dei demoni dell'isola che hanno assunto le sembianze di immagini per trarci in inganno! Ishtar! Ci siamo messi a dormire in mezzo a loro! Non siamo dei codardi! Li abbiamo combattuti fino a quando un uomo mortale può lottare contro le potenze delle tenebre! Ma poi siamo fuggiti e li abbiamo lasciati squartare i cadaveri come sciacalli! Però ci seguiranno senza alcun dubbio!» «Sì, facci salire a bordo!» strizzò uno smilzo scemita. Facci venire in pace, altrimenti dovremo farlo con le spade in mano. E sebbene siamo così stanchi che senza dubbio ucciderai molti di noi, tuttavia non puoi farcela contro tutti. Allora aprirò una falla nella stiva e affonderò la nave, rispose Cupo Conan. Un affranto coro di proteste si levò dalla ciurma che Conan fece zittire con un ruggito leonino. Coni! Devo aiutare i miei nemici? Devo farvi salire a bordo e farmi strappare il cuore? No, no! Strillarono ansiosamente. Amici, siamo amici, Conan! Siamo i tuoi compagni, ragazzo! Staremo tutti insieme! Odiamo il re di Turan e nessun altro! Il loro sguardo si fissò sul volto abbronzato e accigliato del cimmero. Allora, se io sono un membro della fratellanza, grugnì, le leggi del commercio si applicano nel mio caso. E poiché ho ucciso il vostro capo in un duello leale, ora sono il vostro capitano. Nessuno dissentì. I pirati erano troppo abbattuti e malconci per pensare ad altro che ad andarsene da quell'isola spaventosa. Lo sguardo di Conan trovò la figura lorda di sangue del corintiano. Allora, Ivanos, lo sfidò. Una volta hai sostenuto la mia causa, sosterrai il mio diritto nuovamente? Certo, per Mitra! Il pirata, avendo afferrato la situazione, era ansioso di ingraziarsi il cimmero. Ha ragione, ragazzi! Conan è il nostro legittimo capitano! Si levò un coro di approvazione, forse privo d'entusiasmo, ma intensamente sincero per l'impressione che suscitava la silenziosa foresta dietro di loro, che poteva nascondere muti diavoli d'ebano dagli occhi rossi e dagli artigli gocciolanti sangue. «Giurate sulla spada!» domandò Conan. 44 else vennero levate verso di lui e 44 voci si unirono nel giuramento corsaro di fedeltà. Conan sorrise a denti stretti e rinfoderò la spada. «Salite a bordo, miei coraggiosi corsari! Ai remi!» Si girò e fece alzare in piedi Olivia, che giaceva rannicchiata, protetta dalla frisata. «E cosa ne sarà di me, signore?» chiese lei. «Tu cosa vorresti?» ribatté lui scrutandola da vicino. «Andare con te, qualunque sia la strada che percorrerai!» gridò la ragazza gettando le sue bianche braccia attorno al collo abbronzato del cimmero. I pirati, che stavano scalando le murate, rimasero a bocca aperta per lo stupore. «Vuoi seguire una strada di sangue e di massacri?» le chiese. «Questa chiglia insozzerà le onde azzurre di Cremisi ovunque andrà!» «Non mi importa di veleggiare con te su mari blu o rossi! Sei un barbaro! E io sono una reietta scacciata dal mio popolo! Siamo entrambi dei pari, vagabondi su questa terra! Oh, portami con te!» Con una potente risata, Conan sollevò Olivia fino alle labbra. «Ti farò regina del mare azzurro! Salpate le ancore, cani! Bruceremo le brache di Raildiz per Crom!» La locanda della tormenta è stata lieta di presentare Conan, ombre al chiaro di luna.